essere e avere. L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà. In studio con essere, avere, consumi ai confini della realtà, il tema del focus sui trend di questa settimana. Abbiamo rubato l'intro, lo avete sentito, alla celeberrima serie TV anni 60. La fantascienza però in questo caso non c'entra, capiremo il perché tra pochissimo. Prima diamo il benvenuto alla nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. I consumi ai confini della realtà sono tutti quei consumi che interpretano la ricerca della realtà, del realismo, della veridicità fino alle sue estreme conseguenze, con risultati che in certi casi possono essere tutt'altro che autentici. Sono i consumi in cui realtà e finzione si intrecciano, vero e falso si mescolano, dai reality ai finti documentari, dai social game sulla quotidianità ai prodotti dei cartoni animati che diventano realtà. Patrizia. Fare i conti con la realtà, rappresentarla senza filtri, così com'è, è quello che sta succedendo da un po' e non solo in televisione. È il ritorno dell'ordinario, della banalità, del reale che conquista gli schermi e diventa anche una cifra stilistica, diciamo, nei consumi. In televisione negli ultimi anni si è affermato e diffuso il genere cosiddetto factual, cioè quei programmi che trattano storie vere, racconti di persone comuni. Factual vuol dire vero e falso insieme, perché le storie sono vere e rese come tali, ma sono un format di intrattenimento, dunque finzionali, cioè costruite come vere in stile appunto factual. I palinsesti si sono riempiti di programmi sempre più vicini alla realtà, la realtà quella quotidiana, quella banale, ma anche quella socialmente estrema. Alcuni esempi tra i moltissimi: Stay of Execution olandese, replicato poi in Australia, un coaching show, come si dice, in cui esperti finanziari, costruttori, agenti immobiliari e mediatori finanziari aiutano persone che non riescono davvero a pagare il mutuo, ristrutturando quindi la casa e vendendola prima della messa all'asta. Ma ancora 16 and Pregnant su MTV, sulle giovani ragazze incinte, o ancora Lavori sporchi o 21 giorni sulla Rete 4 spagnola. Sono 21 i giorni che un reporter trascorre di volta in volta con senza tetto prostitute, malati, persone con dipendenze varie, eccetera, compresa quella da lusso estremo.